Radio 24 ed Eni presentano Passione Africana, reportage a cura di Gigi Donelli e Roberto Antonini. La mia porta d'ingresso nel Camerun si chiama Limani. È un villaggio cresciuto intorno al confine polveroso del distretto di Mora, in quella che chiamano la provincia dell'estremo nord. Verso le 3 del pomeriggio sono in attesa di un mezzo che mi porti verso il sud del paese. Come tutti, aspetto senza contarci che il caldo molli la sua presa. Ci sono più di 40 gradi e il vento che soffia dritto attraverso il Sahel è di quello che non porta sollievo, ma che prosciuga e basta. Il confine, un piccolo confine, è cresciuto sulla linea invisibile che divide gli stati e ha creato un piccolo mercato dove la gente, aspettando di partire con i bush taxi, trascorre l'attesa sdraiata sulle stuoie srotolate di fronte a piccoli chioschi che vendono biscotti e servono bibite tiepide. Per la quarta volta in queste settimane di viaggio attraverso i paesi dell'Africa occidentale che vedremo in campo ai mondiali sudafricani, cambio lingua e cambio moneta, dall'inglese al francese, dal Naira della Nigeria al franco CFA dell'Africa centrale, di cui il Camerun è la porta d'ingresso sul fianco occidentale dell'Africa. Bom, si parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 nel pulmino, si parte. Niger, Nigeria, Chad, Repubblica Centrafricana e naturalmente il Camerun, dove sono appena arrivato. 5 stati si incrociano a sud del lago Chad, in un territorio arido e privo di veri confini naturali. Mentre il pulmino prende velocità nel letto di fiumi alluvionali che durano un temporale, osservo il quotidiano rituale della ricerca dell'acqua che va avanti da molti chilometri. Le taniche di plastica gialla segnano i punti dove donne e bambini lavorano inghiottiti dai loro scavi. Dentro 2 o 3 metri di terra cercano di stanare le ultime preziose gocce rimaste del prezioso liquido. Ai margini del Sahel la primavera è solo un forno aperto che brucia sui villaggi di terra battuta, di fronte alla speranza che anche quest'anno arrivi la stagione delle piogge a rilanciare la vita almeno per un'altra stagione. Non ho mai capito fino in fondo perché il deserto ci appaia così bello. In fondo è solo una terra pallida, sassi, cespugli e qualche albero isolato, aggredito dalle capre. Tracce di vita sotto un sole implacabile, villaggi bucarù con le case rotonde e i tetti di paglia, eroiche vecchissime Peugeot cariche fino all'inverosimile di fascine raccolte chissà dove, che corrono inseguite da nuvole di polvere. Qui nel nord del Camerun la terra arida non ha nemmeno diritto a chiamarsi deserto, è solo una terra di mezzo ai margini della grande sete, una pianura dove si rifugiano cammelli del Niger, predoni del Chad, una pianura solenne che appare un castigo per gli uomini ma che cattura lo sguardo. In questa terra di transito che ha forgiato nei secoli i costumi dei popoli nomadi, la modernità con le sue strade, le sue case, le sue cose che vanno al seguito dell'uomo e non viceversa, fa ancora fatica ad affermarsi. Eppure, nonostante tutto, la copertura della rete cellulare non viene mai a mancare. La radio del pulmino giapponese ora cattura la voce di un predicatore islamico che viene trasmessa da N'Djamena, la capitale del Chad, che da qui dista solamente una 50ina di chilometri. Un quinto dei 20 milioni che compongono la popolazione del Camerun è di fede islamica, ma qui le differenze religiose non hanno innescato la spirale dell'odio che infiamma invece la vicina Nigeria. In compenso, le bande armate ciadiane hanno avuto libero accesso alle piste a sud del lago e sono arrivate a minacciare le strade che conducono al parco naturale di Wadza, prima attrazione turistica di questo grande nord. Il governo ha reagito creando una task force per arrivare a Marua, appena prima del tramonto, ci vorranno allora ancora parecchie soste e molti controlli da parte delle unità speciali della polizia, che sembrano decise a riprendere il controllo della situazione. Madame, monsieur, nous vous demandons quelques instants d'attention afin de suivre les démonstrations de sécurité. Ladies and gentlemen, may we have your attention, please, our safety drinks. Camerun, paese dei contrasti, paesaggi che cambiano rapidamente sotto le ali dell'aereo che mi porta dal nord a Yaoundé, la capitale amministrativa che divide con Douala il titolo di principale città del paese. Poco meno di 20 milioni di abitanti, uno su tre vive con meno di un euro, appena sotto la soglia di povertà indicata dall'ONU. Come i vicini dell'Africa occidentale e centrale, come il continente nel suo insieme, il Camerun è prima di tutto un paese di giovani. All'università di Yaoundé 2 arrivo proprio mentre si svolgono i giochi universitari, che raccolgono i giovani delle 6 università pubbliche del paese. Sono giornate di grande festa e le gare sono seguite da migliaia di studenti, soprattutto quelle di lotta e di judo, che portano l'entusiasmo alle stelle. Ma se è vero che i giovani sono la chiave del futuro, è anche vero che spesso sono i più scoraggiati. Immobilismo delle elite, corruzione, povertà diffusa e crisi economica alimentano il malcontento. Dopo le proteste e gli scioperi del 2008, l'ordine pubblico è stato ripristinato con la forza, ma i problemi restano. Penso che per me non è un paese fatto per i giovani, perché i giovani non, come dire, non si sentono pas impliqué, non si sentono coinvolti. Allora questo è, io penso questo è la prima cosa. Allora loro vogliono andare via a cercare lavoro fuori, o a cercare di essere capiti, o a cercare di svilupparsi. Dove si va? La prima destinazione è l'Europa o dappertutto, ma loro vogliono andare via, solo andare via. Andare via è il grande sogno per Armand e per tanti altri, magari non proprio alla grande come l'eroe nazionale Samuel Eto'o, ma comunque andare. Chi non ci riesce deve fare i conti con una realtà complessa e cercare di barcamenarsi nell'esercito di ragazzi che nelle città sembrano solo in attesa di ordini. Loro non fanno niente, sono lì tutto il giorno senza fare niente. Anche se possono trovare un lavoro, non è veramente un lavoro, come dire, importante. Se prendiamo 10 giovani, 3 o 4 hanno un lavoro fisso. Come si sbarca al lunario, come si dice in Italia? Allora, dagli anni 2000, si può dire adesso 2003 o 2002, sono arrivati le moto. Allora, questo è un lavoro abbastanza, si può dire, un lavoro proprio per i giovani. Abbiamo a Douala circa 30.000 moto Benzikin. Che sono di fatto delle moto di piccola cilindrata, per lo più devo dire di produzione cinese, che sono un'alternativa al taxi. Sì, molti giovani fanno questo e mi sembra che loro guadagnano bene la loro vita. In ogni giorno un giovane può guadagnare 5.000 franchi, e anche dopo questo ci sono anche piccoli lavori. 5.000 franchi peraltro sono circa 8 euro. Sì, tanti giovani hanno laurea, alcuni hanno master. Siccome loro non possono trovare un lavoro normale, allora fanno questo, invece di andare a rubare, non so. La pubblica amministrazione è ancora la grande speranza. I concorsi sono stati appena riaperti dopo anni di blocco. Abbiamo, come si dice, concorsi per quelli che hanno il BAC o anche la laurea. Allora, questi possono andare a quei concorsi. Tanta gente normalmente gli piacciono andare a fare questi concorsi, perché quando tu lavori nel pubblico, almeno si può dire che ogni mese non hai problema, hai sempre il stipendio. Puoi anche stare a casa, no? Puoi stare tranquilla a casa, ogni mese hai un stipendio. Entrare nella pubblica amministrazione è ancora oggi una garanzia. Come si fa a entrare nella pubblica amministrazione? C'è il merito e anche, purtroppo, c'è la corruzione, no?